Capitolo 3. Sulla banconota spicca il busto di un uomo col cappello, l'espressione arcigna, il viso di tre quarti. Pietro il Grande, recita la scritta sotto di lui. Il commerciante di stoffe solleva con due mani la carta moneta e la studia contro luce. È talmente larga che gli copre la faccia. Siete fortunato ad aver trovato me. L'uomo ripiega il cimelio con cura. Questa non ve la cambiava nessuna banca. Primo, perché ormai è fuori corso da troppo tempo. E secondo, perché se ci mettessimo a fare i conti, 500 rubli dello zar varrebbero un milionesimo di un copeco di oggi. Danny tace. Il contadino Alexei le ha consigliato di rivolgersi al tessutaio, ma si è rifiutato di accompagnarla nella bottega. Solo grazie alle insistenze della moglie ha accettato di darle un passaggio, sul carro, fino alle porte del villaggio. «Ma non oltre la cappella di San Teodoro!» si è impuntato. «Non voglio che qualcuno mi veda con una che poi magari si scopre che è una ladra!» Arrivati sul posto, l'ha aiutata a scendere e, senza smettere di brontolare, le ha consegnato un involto di tela. Dentro un tozzo di pane nero, un uovo e tre patate bollite. Con gesti spicci e poche parole le ha indicato la strada. Poi se n'è tornato in fretta verso casa. «Sia chiaro», prosegue il bottegaio, «io non sono di quelli che hanno conservato i soldi vecchi sperando che tornassero i Romanov. Al contrario, ho cominciato proprio quando certi furbi si sono rassegnati e hanno deciso che oramai tanto valeva bruciare tutto. Allora mi son detto, vuoi vedere che adesso diventano rari?» Danny ha l'aria di non averci capito molto, ma l'uomo continua a parlare come se niente fosse, sempre più appassionato. «Tuttavia può darsi che rari lo diventino tra 100 anni, quindi oggi non posso pagarveli granché». Sparpaglia sul banco i vecchi rubli. «Sentiamo, cosa vorreste per queste cartacce?» Danny aspetta che pure la seconda domanda abbia un seguito, ma il tessutaio rimane zitto, in attesa. «Dei rubli validi?» azzarda lei. «Questo è certo», ridacchia il tipo. «Non spaccio mica soldi falsi io». L'uomo pesca da un cassetto una manciata di spiccioli. «Ecco qua!» Deposita 4 pezzi di fronte a sé. «Posso darvi questi?» La ragazza raccoglie una moneta. Su una faccia 2 uomini abbracciati. Uno regge degli attrezzi, mentre l'altro, col braccio libero, indica un sole nascente. L'alba sorge pure sul rovescio, incorniciata tra 2 mazzi di spighe insieme a una stella con 5 punte. Sopra i raggi del mattino galleggia un globo terrestre, mezzo nascosto da una falce e da un martello incrociati. Intorno allo stemma, come un anello, corre una scritta: «Proletari di tutti i paesi, unitevi!» «Va bene così?» incalza la voce tra i rotoli di lino. Danny indica una vecchia banconota da 500 rubli. «Posso ottenere quella?» «E che ve ne fate? Casomai tornasse lo zar? I Romanov sono tutti stecchiti!» L'uomo ride di gusto. «È un ricordo!» taglia corto Danny. «Prendete questa allora, è più rovinata, ma se per voi non conta!» Il biglietto da 500 passa di mano. Lungo le pieghe si aprono già i primi strappi. Danny se lo ficca in tasca, raccatta i soldi e domanda dove si trovi la stazione. Poche, semplici indicazioni. Il villaggio è un pugno di case con un campanile nel mezzo e la ferrovia ci passa per necessità, non certo in virtù della sua importanza. In capo a 10 minuti, Danny arriva a destinazione. Una baracca con pensilina e poco altro. L'interno ospita 2 panche di legno e il manifesto con gli orari affisso al muro. Completano l'arredamento 3 finestre e una porta rossa che affaccia sull'unico binario. Sul marciapiede si aggira una donna con un berretto militare o qualcosa del genere, a giudicare dall'emblema sopra la divisa. Danny le si avvicina. «Chiedo scusa, dove posso fare un biglietto per San Pietroburgo?» «Si chiama Leningrado», la rimprovera la donna. «Potete pagare a me prima di salire. Il treno sarà qui tra 2 ore, forse 3». La ragazza mostra sul palmo i suoi averi. La donna preleva le monete e gliene dà in cambio una di rame, 5 copechi. Sul retro, il solito motto. Danny si accomoda su una delle panche. passa la prima ora a studiare i documenti di Liev Koldomazov. Ma non c'è molto da leggere e troppe sigle o abbreviazioni misteriose. RSFSRGNST. Poi la stanza si anima e Danny osserva le persone che man mano la occupano. I vestiti, le scarpe, i diversi tipi di cappelli, le forme dei bagagli, gli oggetti che spuntano dalle sporte. Nessuno le dedica la medesima attenzione, al massimo un'occhiata passeggera. A un rumore di ingranaggi e ferraglia, via via sempre più forte, la folla sciama verso l'uscita e Danny si accoda. Fuori, indifferente al frastuono, avanza fino al bordo della banchina per vedere meglio la lunga bestia metallica. Ne annusa l'alito ferroso a pieni polmoni e contempla entusiasta il pennacchio di fumo, i grandi fanali e le ruote. Decine di teste sporgono dai finestrini e grappoli di passeggeri si accalcano sulle scalette. La locomotiva rallenta, si ferma, ansima ancora. Dal predellino di fronte a Danny scendono due uomini vestiti uguali. La ragazza fa per salire, ma l'urlo della capostazione la inchioda sul posto. «Non quella!» La donna si avvicina a passo spedito. «È la carrozza riservata!» «Riservata a chi?» «Ufficiali dell'esercito, ospiti stranieri e funzionari di partito», scandisce la donna. Poi indica la vettura successiva e ordina di salire lì. Danny monta sulla scaletta e si affaccia all'interno. Un corridoio stretto collega gli scompartimenti. Il primo è occupato da quattro persone e altrettanti uccelli, con una strana corona rossa in cima al capo, rinchiusi nella stessa gabbia. Un uomo baffuto ammorba l'ambiente, soffiando fumo dalla bocca. Danny avanza incerta, l'involto del pranzo stretto in grembo, reggendosi alla parete col braccio libero mentre il pavimento le balla sotto i piedi. Il treno è ripartito. A metà carrozza uno scompartimento vuoto. La ragazza siede accanto al finestrino e si lascia ipnotizzare dalla fuga degli abeti, dagli squarci d'acqua che la interrompono a tratti. La locomotiva corre più lenta di quanto si aspettasse. Per due volte il convoglio si arresta in mezzo alla foresta e gruppi di passeggeri caricano a bordo cataste di legna. «Ne serve ancora! Ne serve ancora!» grida un tizio con la faccia tutta nera. È mattina, ma Danny sente che le palpebre le si chiudono. Avrebbe fatto meglio a prendere posto vicino ad altra gente, per chiedere che l'avvertissero prima di San Leningrado. Inganna il tempo, giocando col ciondolo che porta al collo. E in breve si addormenta, sognando immagini di casa.